Friuli nel mondo, 98esima trasmissione dedicata agli emigrati. Villotte e voci di carne. Lo spirito più autentico della friulanità, legato ad un passato ricco di buone ed umili cose quotidiane che fanno sereno il cuore, è forse il miglior patrimonio dell'anima appassionata e gentile dei carnici, pur sotto la dura ed irsuta scorza di questi montanari abituati alla fatica, alle privazioni ed alla lotta. La saldezza morale della gente di Carnia è rimasta infatti fedele alle alte tradizioni di civiltà dei loro avi, e nel segno di queste tradizioni i paesani di Prato Carnico vogliono oggi dedicare ai fratelli friulani sparsi in ogni angolo della terra alcune antiche villotte nate dall'anima del popolo sulle balze dei monti o lungo le stupende vallate della Val Calda, della Val di San Canciano, della Val di Incaroio, della Val Fella, della Val Pesarina e della Val del But, di quella del Degano, del Tagliamento e della Val di Gorto. Villotte antiche, ricche di sentimento, stupende come le cime d'argento della Mariana, della Tenca, del Sernio e dell'Arvenis, e cantate nelle brevi tregue di un duro lavoro che sa trasformare in campo le rocce con lo stesso semplice cuore dei vecchi montanari di Carnia. Ascoltate ora questo mazzetto di villotte carniche dalla salda struttura armonica su testi di vera purezza popolare. Eccovi una villotta della Val Pesarina, dal titolo Gnot di Avril. Corri, guardi, mi ven come di mai, sotto il volo di che stelle, il mio bel mi ha Farai Fa è un'antica composizione della Val di San Canciano. Yeah. Dutas, dutas, da son mi Giuda. Dutas, dutas, da son tornada. No. La villotta Se Sovia la Sostas è un canto accorato nato a Prato Carnico. Se Sovia la Sostas, ai blasi di passione, a viole la bequema, cotunati sul porto, a viole la dai Nuviz è una villotta augurale della Val Pesarina. Biel entram in questa villa, biel entram in questa villa, biel entram in questa villa, insinto da nobiltà su augurin guida fortuna. Fortuna sua. dalla Valle del But, ascoltate Vilie di San Juan. La plu e piede de sornaris che per sfrutis venturam di San Juan e la visilie tante clas curino san dotis quantis in pesere tanca su nel campano vamburito gris pes buzi pronto picciul do levo una villotta antica di qualche secolo, nata a Comeglians, dal titolo Mieli Mieli. Mieli Mieli, sì. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 98esima trasmissione a cura di Ermete Pellizzari. Hanno cantato I paesani di Prato Carnico.